and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Ciao. Ciao. Oggi cominciamo con i bambini plus dotati. No, vabbè, ma ti sembra la sede e l'ora giusta per parlare di certe cose, Drago? Ma cosa dici? Ma siamo in fascia protetta, pomeriggio, la merenda, Chiedo Asilo, no? Ormai è un classico. Plus dotati, ossia quelli super intelligenti. Scusa. Sì, no, pensavo parlassi di imbuto lì. Lascia stare. No, vabbè, non voglio sapere a cosa pensavi. Comunque c'è un dato molto confortante che arriva dall'AISTAP, che è l'Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plus Dotazione. Il dato dice che l'8-10% dei bambini italiani è appunto plus dotato. Ah sì? Non si direbbe però. Perché? Perché mi chiedo dove siano finiti i bambini plus dotati nati 40-50 anni fa. Vista l'attuale classe dirigente, viene da pensare che se il 10% è plus dotata, il rimanente 90% è minus abens. Giusto per rimanere nell'ambito del latino. Sì, vabbè, ma infatti non è detto che poi questi bambini plus dotati realizzino qualcosa nella vita. Molto spesso, anzi, finiscono ai margini della società. Come i minus abens. Esattamente. Plus e minus, capito? Quindi, alla fine, Drago, sono uguali. Sì, plus e minus. Sì, spesso uguali. Addirittura un plus viene scambiato per un minus, perché i bambini iperintelligenti sono anche ipercinetici, sembrano strani. Anzi, magari lo sono strani, però sono anche appunto super intelligenti, quindi nasce il problema innanzitutto di individuarli e poi di coltivarli. Un esempio è il bambino Sgarbi, che evidentemente non è un minus abens, evidentemente è un plus dotato, ma evidentemente è anche isterico. Come avranno fatto i professori del bambino Sgarbi a sopportarlo per tutti gli anni della scuola? È un casino, infatti anch'io da piccolo ero così. Anche io, ecco. Vedi che fine abbiamo fatto, Drago? Però diciamo che non sono mai stato trattato come un minus. Cioè, giusto un paio di professoresse inesperte avevano consigliato a mia madre di darmi dei calmanti o di farmi vedere da qualcuno, fatto bene. Perché ero sempre agitato. No, invece ero insofferente verso l'autorità. Ecco, vedi, anche quello è tipico dei plus dotati. Vedi un po' il bambino Sgarbi. Certo. E il messaggio che arriva dall'AISTAP è: diamo insegnanti adeguati a questi bambini. Quindi insegnanti plus dotati. Esatto. Cioè insegnanti ipercinetici e insofferenti verso l'autorità. Vabbè, capito? In competizione con gli alunni. Vendicativi, sadici. Mi sembra un ottimo prospettiva. C'è una democrazia normale. Io vorrei finire la non frase. Dire stronzate, ma non dici frasi, dici stronzate. Siamo in democrazia, idiota, ignorante. Allora, ha parlato l'esperto. Capita anche in America, non sputanare l'Italia. Va bene, va bene, certo che è così. Va bene, certo che non è così. Certo che è così. Assolutamente no. Sei un bugiardo. Certo. Non c'è la neurodeliri. Clap your hands. Applaudite questa testa di clap your hands. E ora, bambini, ricreazione! Ah, senti che aria, si sente, la ricreazione di quasi primavera. Sento, sono Tito che forse... Ma cosa Tito? Ma lascia stare, senti l'aria frizzante della primavera. Vabbè, sì, quasi primavera, che è ancora lunga la strada per la primavera, sei tu che sei in anticipo. Ah, sì, io sono avanti. Sì, perché per te oggi è quasi weekend, quindi anche già quasi primavera, estate, siamo già nel prossimo inverno. Vabbè. Drago! Oh, bambino Alberto, ma sei di nuovo sull'albero. Sì, sapete che ogni tanto succede, che mi tocca fare la piccola vedetta lombarda. Come si sta lassù? Come si sta? Si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie. Ma come d'autunno? Appena detto che è primavera, qual è autunno? Ma no, era una citazione, no? Di quel poeta ungherese. Ma quale ungherese? Dai, Ungaretti, non ungherese. Ma non era una poesia del Gobbo di Notre Dame? Quasimodo. Ma no, ma Quasimodo era francese, non ungherese. Notre Dame. Vai, Tito, stai buono. Allora, bambino albero, ci sono austriaci in vista? No, di austriaci nemmeno l'ombra. No. E secondo me non arrivano più, eh. Vabbè, ma dai, ma la sentinella che aspetta il nemico che non arriva è un classico della letteratura, eh? Certo, cioè c'era quella delle Sturmtruppen di Bombi. Sì, però anche Buzzati o Kafka, non mi ricordo più. Non è tanto uguale. Tito, dai, dopo ti do... Smetti, siamo in trasmissione, certe cose dire solo quando siamo fuori onda, Okay. Però la pappa, scusa... Vabbè... a proposito di papa, cosa vuoi? No, io qui sto aspettando il rancio da un bel po', il rancio, certo, e non mi sa che si sono dimenticati di me. Vabbè, guarda che anche la sentinella dimenticata da tutti è una specie di classico, non preoccuparti. Sì, sì, ho capito, sarà anche un classico, però io ho fame, Mi piace le polpette, tagine e cotolette, e sacco le spaghetti, niente scatolette, solo la babona, anche la salata, ma quanta scatolagna, che fame, che fame, così me la mangia, che fame, che fame, così me la mangia. Appunto, come diceva Seba, go fame, da sime da magna. Vabbè, se vuoi avvertiamo in mensa che si sono dimenticati di te, magari ti portano su qualcosa. Grazie, va, mi presto il favore. Che menata però star lassù, bambino Alberto. Sì, puoi dirlo forte, Vabbè. Però un vantaggio c'è. Qual è? Quello che ti fa vestire come una vedetta lombarda, che poi in realtà è un costume da nordista, cosa c'entra? Beh, in effetti è così. No, che poi alla fine i vantaggi in effetti sono due. Cioè? Uno è quello che me ne sto qui tranquillo, in pace, già, e nessuno mi rompe le scatole. Così i bambini non ti danno fastidio, tu puoi essere la sociale, vabbè. E l'altro? L'altro è ancora più forte, cioè? È che non mi becco la TBC dagli sputi dei barboni. Ma cosa dici? La TBC, la tubercolosi? Ma siete così adulti, non lo sapete? Cosa? Ma a Milano ci sono stati dei casi di TBC in una scuola, Ah sì, sì, mi pare di averlo sentito dire. A Leonardo da Vinci, non so. Cioè la tubercolosi, voglio dire. Sì, ma non è che succede dappertutto. No, però sembra che sia stata causata dagli sputi di un gruppo di senza tetto, no? Di homeless. Homeless. Questi bivaccavano vicino alla scuola, sì, e poi quelli sputano, Sì, ma come sarebbe, scusa, che i poveri clochard... Clochard, li abbiamo detti tutti, draga, abbiamo detto. Ma i senza tetto, sì, gli homeless, i barboni, e i clochard. Questi poveracci andavano a sputare ai bambini, non mi sembra possibile che succedano. Che i bambini giocando avranno messo le mani in mezzo agli sputi dei barboni, no? E poi uno tira l'altro, cioè si toccano, tua mia. Ma una bella sfiga però, Sì, ma qua su, di questi problemi non ce n'è, Qui è asettico, Sì, Ma no! Un piccione mi ha cagato in testa! Ma no, adesso anche 50 centesimi, ho della merda, dai! Ma tu continui! Ma no, adesso è un euro! Ma porca vacca! Ma bambino Alba di Sangue, ti conviene chiudere il becco e fare la guardia in silenzio, perché qui sennò altro Ho capito, ma adesso io sono tutto sporco, Sta attento che ti viene la leptospirosi, con la cacca del piccione. Leptospirosi, altro che tubercolosi. Appunto, non ce l'avete i fazzolettini da tirarmi su? Ma i fazzolettini non li abbiamo mai con noi. Ho usato per Tito prima che ha fatto la cacca. Ma non andava bene. Comunque dovresti chiedere a qualche maestra, qualche donna, per favore. Ma che schifo, cosa fa? No, occhio che il guano è anche, guarda, è tanto tossico quanto lo sputo di un malato di TBC, viene quella la lepto, non so. Leptospirosi. Allora vuol dire che mi prendo la TBC anch'io? No, la leptospirosi. Vabbè, anche la TBC. Vabbè, comunque ti facciamo mandare su delle belle dosi di rifampicina e di isoniazide. Ma cosa sono? Allora, dillo bene com'è. Hai detto? Rifampicina e isoniazide. Rifampicina? E isoniazide. Bravo, bravo. Sono antibiotici. Sono antibiotici, quelli van bene per la TBC. Ma senti, lascia stare, a me bastano dei fazzolettini di carta, no? Ma se non ce li abbiamo. Ho raccolto la cacca di Tito prima. Allora prendo la TBC. In questo mondo tecnologico siamo capaci a far tutto, ma se un bambino si sta soffocando con un boccone di finocchio cotto, non siamo in grado di salvarlo. No, parla per te, perché io la so fare, la manovra di Heimlich. Tito, vedi? Cosa c'è? Ma dai! La manovra di Heimlich è pertinente a quello che stavi dicendo, Sì, ma Tito ci avverte anche quando siamo troppo alti. Ma come troppo alti? Ma scusa, hai detto Heimlich? Vedi? Scusa, ma cosa vuol dire? Io sento, tra l'altro, più che vedere. Lui reagisce ai nomi dei filosofi tedeschi, sono troppo alti, capito? Che alti e quali filosofi tedeschi? La manovra di Heimlich è una tecnica per risolvere in tempo zero i casi di soffocamento. Si chiama così per via di un medico americano, Henry J. Heimlich, ho detto all'americana Heimlich, che è ancora vivo, ha 90 anni, allora, quindi tanti auguri. Lui sicuramente ci starà ascoltando. Ciao Henry J. Heimlich. È così? Sì. Quindi nessun filosofo tedesco, drago, hai capito? Piuttosto è un medico americano. Vabbè, e com'è questa manovra? Allora, tu stai soffocando. Sì. Aspetta un po', così sono sicuro che stai soffocando veramente. Sì, ho capito. Oh, stai soffocando. Allora, ma prima che tu soffochi, non bisogna tirare le pacche sul... quello non serve a niente, le pacche sul niente, sulla schiena. Bisogna invece metterti di spalle, così puoi infilarti le braccia sotto le ascelle, così unire le mani con questa presa, le mani... sulla bocca del tuo stomaco, qua alla fine dello sterno, qui dove c'è il plesso solare. Ecco, è uno, due. Aia, ma mi hai rotto una costola. Però non sei soffocato, no? Quando alla radio ci sono troppi bambini, spengo Cappa e Drago e ascolto Garanzini. Chiedo asilo. Non dovete fare così, non dovete ascoltare Garanzini, dovete ascoltare Cappa e Drago. E fate come la bambina Margherita Ina, scrivete le strofe che possono comporre la sigla di Chiedo asilo e mandate a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.